fratelli, l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva, di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 4 di luglio, oggi una pluralità di feste per così dire. Cominciamo con la festa dell'indipendenza americana. E di lì volevo cominciare. Perché c'è qualcuno che confonde Tsipras con Jefferson. No signore, e parecchi economisti anche di grande nome e prestigio a dire la verità. Comunque oggi è il giorno dell'indipendenza americana, quindi un aiuto a tutti coloro che credono che non sia una festa, è una grande festa della libertà. E anche Santa Elisabetta del Portogallo, che non ha per noi proprio la stessa importanza, ma per carità nel calendario liturgico è preminente. Dopodiché sono le ultime ore prima del referendum in Grecia, di cui ovviamente parleremo a lungo nella nostra trasmissione. Noi vi salutiamo in diretta da un canicolare bunker di vetrocemento all'interno di Expo. Siamo a Cibus e Italia, e se sopravviviamo a questa temperatura arriveremo ad allietarvi in queste due ore. Come sempre c'è la compagnia, questa volta al gran completo, dei conti della Belva, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Oscar Giannino, che vi saluta e vi ringrazia in questa ruvida puntata tagliente in cui, ohimè, avremo tanti argomenti di polemica. E come sempre io vi invito a prenotarvi, a telefonare all'800240024 e a mandarci le vostre opinioni 349-238-6666 sugli argomenti della puntata. Di che cosa parleremo in questa puntata? Vi grazieremo dal bilancio dell'Expo dopo i primi due mesi e dell'insurrezione dei ristoratori di Milano contro Expo. Sullo sfondo, teniamola questa cosa. Noi avremo, come sempre in tutte le puntate, iniziamo con una riflessione su che cosa è avvenuto in settimana sui dati della crisi italiana, con il nostro bel Seminerio in crisi, perché vedrete che l'Istat dice delle cosette che ohimè ci danno ragione, per così dire. Possiamo dirlo senza fare i pavoni, perché quando l'Istat emana una nota, sarebbe meglio non averla ragione in questo caso. Certo, perché noi tifiamo per la ripresa, però l'Istat è il primo oramai a dire che la ripresa si sta raffreddando. Diamogli un po' di vitamine, ma vedremo i dati che sono usciti questa settimana. Dopodiché abbiamo due grandi blocchi di argomenti. Partiamo, come era inevitabile, con la Grecia, dandovi le vostre opinioni, le vostre, perché voi chiamate per dirci, volete, siete a favore del referendum, votereste sì, votereste no, lo votereste anche in Italia, avete capito che è un referendum che non decide nulla, è solo una specie di sondaggio su Tsipras, insomma diteci la vostra e chiamateci. Ma noi sentiremo delle voci da Atene di imprenditori e manager che ci racconteranno che cosa avvertono nelle ultime ore prima del voto. È una situazione molto delicata, molto tesa. Tra l'altro i giornali italiani hanno totalmente non fatto attenzione a uno degli aspetti che in realtà chi vive lì ci segnala come importante, cioè il ruolo di Alba Dorata della destra più estrema nel, diciamo così, usare argomenti un po' persuasivi a favore del no, dell'uscita dall'euro e dell'Unione Europea pure, perché questo è ciò che pensa Alba Dorata. Naturalmente non è solo Alba Dorata per il no, e quindi noi avremo questo primo blocco che esamina le possibili conseguenze di che cosa avviene da lunedì in poi. È comunque una svolta nella storia dell'Unione Europea e dell'euro, inutile sottovalutare. Siamo in un mare nel cui tragitto, nella cui rotta, la verità è che bisognerà vedere che cosa la BCE pensa, scatenerà inevitabili polemiche, perché la politica non è molto attrezzata a capire che bisognerà mettere in atto molto rapidamente, qualunque sia l'esito del voto, una serie di cose tragicamente necessarie. Dopodiché noi andiamo a un altro blocco che parte come spunto da un sindaco che ha deciso, di fronte alle municipalizzate, facendosi i conti, di farne a meno, e ci dimostrerà come lui riesce a offrire un servizio A, più efficiente, B, meno oneroso, C, a tagliare le tasse ai suoi cittadini, perché dice: io dei grandi carrozzoni delle municipalizzate penso che si possa fare a meno. questo spunto per parlare appunto dell'enorme blocco delle migliaia di società pubbliche locali di cui questo governo, malgrado i suoi annunci, fin dall'inizio si è totalmente dimenticato, perché ha un patto con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale Comune Italiana guidata dal sindaco di Torino Piero Fassino. Questo patto è: tu non ci ritocchi, caro governo. Nel frattempo però le inefficienze si moltiplicano, i costi salgono, i deficit da ripianare, parleremo dell'ATAC, 1 miliardo in 5 anni, diventano vertiginosi, e nella realtà noi raccontiamo che stiamo efficientando la pubblica amministrazione, ma di fatto in questo enorme comparto non lo facciamo mentre arrivano decisioni molto discutibili come quella su Poste, non lo facciamo mentre dal CDA dell'ENI esce sbattendo la porta un membro perché è totalmente non d'accordo sul coinvolgimento giudiziario dei manager dell'azienda, non è d'accordo sul fatto che Pistelli, vice ministro con le deleghe energetiche, si dimette dal governo e diventa vicepresidente dell'ENI. Ecco, queste sono le tante cose che nel settore pubblico continuano ad avvenire, anche se i giornali ovviamente hanno attenzione solo per quello che capita in Grecia, per così dire, ma anche la politica italiana, diciamo, è sotto i morsi di alcune novità. Del resto non è un caso, Berlusconi adesso tifa per Della Valle, parleremo anche di questo, ma prima, come sempre, dopo avervi invitato a telefonare su tutti questi argomenti e a twittare il nostro account Conti della Belva, il giro di opinioni su che cosa ci ha fatto arrabbiare in settimana. Carlo Alberto. Io comincio con Poste Italiane, che è un'azienda che amo da tanto, ma che verrà quotata dal governo sulla traccia di quello che aveva già disegnato il governo Letta un atto e mezzo fa, senza interventi industriali, cioè senza spacchettamento, così com'è, così previsto e piaciuta, no? Prendere o lasciare. Spiega bene cosa vuol dire senza spacchettamento. Vuol dire che quotare un'azienda che ha due anime sostanzialmente incompatibili fra di loro, che è Recapito Postale, peraltro in situazione di monopolio, e un Banco Posta molto molto borderline rispetto a certi privilegi che ha rispetto alla raccolta del risparmio, è un ibrido difficile da leggere, con sussidi incrociati in cui il Banco Posta sussidia generosamente il Recapito Postale, per non parlare dei sussidi invece che diamo noi come cittadini al Recapito Postale. E non si può, secondo me, quotare un'azienda così, che è incomprensibile e illeggibile. È giusto, quindi fammi dire, plaudiamo alle privatizzazioni che finalmente ricominciano dopo decenni di buio, ma non così, non è il modo di privatizzare, era un'occasione da non buttare via. Mi auguro che il governo nelle scelte poi operative modifichi questo atteggiamento, che francamente è incomprensibile, anche perché verrà piazzata poi sul mercato retail, cioè vendute le azioni ai vecchietti in Posta, con una situazione di grave conflitto di interessi. Non vorrei si ripetessero situazioni come le banche popolari in questo paese, che tanti danni hanno fatto. Quindi noi continuiamo a privatizzare monopoli, questo è il punto. Dopo aver detto per 20 anni che era sbagliato averlo fatto 20 anni fa, continuiamo allegramente a farlo, perché allo Stato interessa solo massimizzare l'introito alla classazione delle azioni. Renato. Io da industriale, i giudici che vanno fino in Cassazione per sequestrare un'azienda, non perché sta inquinando, perché non sta inquinando, ma solo perché mancano 4 timbri e 2 autorizzazioni. Questo è. Cioè, questa è la situazione in cui poi abbiamo un Presidente del Consiglio che va in giro per il mondo a dire: voi dovete venire ad investire in Italia. Tu immaginati il manager seduto su una scrivania a New York, al quale raccontano una cosa di questo genere, che voglia di venire a investire in Italia. Detto questo, lo Stato naturalmente ieri ha fatto il decreto per consentire il dissequestro sia all'Ilva, al secondo altoforno, sia delle aree Fincantieri e Monfalcone. Sintesi: se lo Stato è padrone fa i decreti contro i giudici, se l'azienda è dei privati se ne fotte, perché così avvenne a Ilva. Bene il decreto, ma attenti a non farvi sfuggire questo non secondario particolare. Mario. Ma sì, io, a parte condividere tutto quello che è stato detto finora da Carlo Alberto e Renato, nel senso, come dice Renzi, c'è molta fame di Italia in giro per il mondo, il che, cioè, rischia di essere veramente grottesco più che ridicolo, volevo sottolineare una cosa a cui poi mi ricollegherò quando parleremo della congiuntura italiana, cioè il ruolo dei media nel dare i dati economici. Perché questa settimana veramente io mi sono incazzato oltre ogni limite quando, rientrando a casa il giorno che sono stati pubblicati i dati di occupazione e disoccupazione, vedo il sottopancia scorrevole di Sky TG24 che dice 20.000 giovani disoccupati in meno. omettendo di dire che c'erano 43.000 inattivi in più sul mese, il che vuol dire che la disoccupazione non si è ridotta, semplicemente è aumentato il numero degli scoraggiati. È algebra selettiva, caro. No, ma esattamente. Poi io ho fatto un tweet, diciamo, quotando il direttore, la direttora, come si dice, di Sky TG24, ovviamente non ho avuto riscontri. Stessa identica cosa l'ho trovata sulla home page della Stampa, e stesso discorso e stesso tweet mandato al direttore Calabresi. Cioè, voi non potete fare informazione scrivendo simili idiozie. Questo è il punto. E anche per questo noi andiamo in onda, caro Mario. Vabbè. Detto questo, subito un ascoltatore mi pizzica dicendo: Giannino dice che contro l'euro e contro la soffocazione della Grecia c'è solo la destra e che poi arriveranno le cavallette. No, non ho detto questo. Però siccome c'è la destra e ha un certo ruolo, bisogna anche ricordarci che ci sono i fascisti. Fammi dire che a Badorata si pregiano di essere fascisti e poi presidiano i seggi. Ci sono tanti altri, per carità, c'è Krugman, c'è Stiglitz, non voglio dire di no. Però intanto lì c'è una bella destra che sarà in ogni seggio e quindi speriamo bene. Ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta, caro ascoltatore di Radio 24, in questo sabato 4 di luglio, Santa Elisabetta del Portogallo, ma soprattutto festa dell'indipendenza americana, poche ore prima del voto referendario in Grecia, su un testo già superato peraltro, quindi è un voto di sondaggio sul governo Tsipras, sì o no. E andiamo al nostro rituale, primo appuntamento come ogni trasmissione di sabato, e la rubrica è A che punto è la crisi? Sto vivendo una crisi. È una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci qua, il nostro seminario in crisi. Mario questa settimana ha avuto su cosa esercitare la sua penna. L'avete sentito già prima a proposito di come l'informazione ha riferito di alcuni dati sull'occupazione usciti questa settimana. L'Istat proprio ieri ha emesso una nota in cui dice il mercato del lavoro non si stabilizza e la ripresa si raffredda. Mario, è sempre stata fredda, fresca, tiepida, non è questione di stabilizzarsi. Adesso possiamo anche citare, e può avere senso, l'effetto ad esempio psicologico della situazione greca, che però si dispiegherà secondo me solo nelle prossime settimane a seconda dell'evoluzione. Ma tutto quello che abbiamo detto nelle ultime settimane riguardo l'assoluta gracilità, fragilità e inesistenza della ripresa italiana, del mercato del lavoro italiano, sta trovando puntuale conferma. Cioè non c'è nessuna ripartenza, le condizioni restano quelle, gli indicatori diciamo di clima delle imprese, quindi indici di direttori acquisti e quant'altro, sentiment eccetera, sono migliorati, però questo miglioramento non si traduce a distanza di qualche mese in dati effettivi di miglioramento sotto ogni punto di vista. Quindi la situazione resta stagnante, la Grecia resta una variabile impazzita, anzi impazzipras, e credo che ci saranno sicuramente grosse turbolenze nei mesi a venire, che secondo me verranno gestite per la sua parte con la sapienza che lo caratterizza da Mario Draghi, ma più di tanto non può fare miracoli. Bisogna vedere che cosa succederà effettivamente della Grecia, magari dopo avremo modo di parlarne, ma per quanto mi riguarda la situazione greca è probabilmente ha superato il punto di non ritorno. Però Mario, condividi che questi dati confermano una dipendenza esterna della nostra economia, che fa fatica a trovare energia autonoma? Stai parlando male del Jobs Act? No, sto dicendo che non riusciamo a trovare la quadra né della domanda interna né di un equilibrio interno, e dipendiamo da venti esterni, da quel piccolo refolo che è arrivato dal quantitative easing, e appena invece c'è turbolenza sui mari del Mediterraneo ovviamente ci richiudiamo. Esatto. Non è un'economia veramente completamente esogena ormai nelle sue determinazioni. Ma il ministro Padoan ha ripetuto incessantemente che siamo immuni da ogni contagio e da ogni effetto negativo. Il fatto che lo faccia mi fa sospettare che il nostro essere un po' goofy, no? We the owls, dovrei dire oggi, invece che we the people, no? Noi i goofy. Visto dal lato industriale, ormai da alcuni anni vive solo chi esporta. Esatto. Domanda interna è morta. Domanda interna, qualunque persona con cui io parli, che fa il mio mestiere, ti parla di necessità di esportare di più. Uno dei provvedimenti che può dopo il Jobs Act muovere qualcosa, cioè il famoso decreto del cui testo siamo in attesa, cioè quello sulla diversa deducibilità fiscale non solo anno dei non performing loss, dei crediti bancari deteriorati, naturalmente non c'è ancora il testo, come sempre nella storia italiana. Quel provvedimento potrebbe in realtà, Carlo Alberto, forse dare un contributo abbastanza importante, non credi? Sì, e sul lato dell'offerta di credito sicuramente, che sblocca parte dei bilanci delle banche medie soprattutto, va a penalizzare le banche grandi che hanno già fatto i write-off, cioè hanno già fatto le loro ammissioni di colpa negli anni scorsi, perché rispalma quello che pensava di spalmare in 5 anni, rispalma su 10, quindi da un altro da cornuti e mazziati alle banche brave. Però, che avevano fatto, alle altre comunque da una mano importantissima, perché le consente loro di sbrogliare i bilanci e quindi dall'anno prossimo ragionevolmente di riprendere il ciclo. Però c'è un tema di domanda di capitale, esatto. Capisci? Tu vuoi aggonfrirlo. Beh, e non so chi frequenta le imprese, ma io sento telefonate dalle banche, quelle poche sane che ci sono, che stanno offrendo denaro a tutti, e le imprese, verità, che dicono: scusate, dicono, con questi chiari, esatto, di luna come investiamo? Questa è la verità. Questa, no, è una domanda, una delle cose che potrebbe funzionare parlando di investimenti è quella di rimodulare la parte degli ammortamenti. Quella sicuramente in una fase, cioè l'avessero fatta 6 o 7 mesi fa, nel momento in cui c'era il beneficio del dollaro, del petrolio, eccetera eccetera, qualcosa avremmo portato a casa. Ma anche qua è lo stesso problema dei tempi di questo decreto bancario, cioè questa anomalia che con questo governo è diventata patologica, di annunciare, sì, provvedimenti che non ci sono. Cioè legislation by slides, come dico, capito, io, cioè facciamo però leggi con le slide. Ma, sì, voi scusate, avete capito quale sarà la copertura di questa accelerazione degli accantonamenti a perdite su crediti? Perché io l'ho cercata ovunque, non l'ho trovata, Mario, e sto aspettando di poterla commentare. Secondo me non c'è il decreto bancario. Infatti, quella, allora, che ho trovato io è... Io avevo pensato che c'erano problemi di copertura, l'avevo anche scritto, per questo mi hanno chiamato dal Ministero dell'Economia l'indomani mattina, io ho anche parlato con i vertici dell'ABI, entrambi convergono nel dire che lo schema per azzerare, loro dicono azzerare, vedremo se è un azzeramento o limitano comunque la necessità di copertura, è quello di consentire a ogni singola banca di mettere in deduzione in un solo anno le perdite non solo di questo esercizio ma anche dei precedenti non sottoposti a deduzioni, visto che dopo il governo Letta si era passati a 5 anni, ma in maniera tale che ogni banca sia libera di scegliere tra quello e tutto il resto dei monti di crediti fiscali da mettere in deducibilità a quali dare priorità anno per anno entro un tetto decennale, con l'idea che le banche preferiranno fare nel primo anno e nel secondo soprattutto la deducibilità delle perdite di crediti, perché gli danno un beneficio non solo nel conto economico ma anche in quello patrimoniale, gli liberano capitale, e il resto delle deduzioni, quelle che hanno beneficio solo sul loro conto economico, spalmarsela più avanti. Però il meccanismo noi non lo conosciamo. Questo mi hanno detto entrambi che è la cosa, e le banche, l'ABI mi ha fatto capire, certo noi mastichiamo un po' male, come diceva Carlo Alberto, perché significa protrarre nel tempo molto a lungo i benefici economici del resto dei crediti fiscali. Sì, sì. Lasciando a bilancio dei deferred tax asset, cioè dei crediti fiscali, in capo a uno Stato che non so da qui a 10 anni se è, come la Grecia, no? Visto che c'è Varoufakis, dice che le banche greche sono patrimonializzate, certo, ma il grosso del patrimonio sono i deferred tax asset, quindi dei crediti garantiti da uno Stato che sta per fallire, anzi sta per fallire abbastanza minimale, diciamo, ecco. Ricordiamo che in Grecia 180 miliardi di PIL nel 2014, il totale delle imposte messe a ruolo ma non incassate dallo Stato, quindi non il nero presuntivo, tasse messe a ruolo ma non incassate, a maggio ha superato gli 80 miliardi di euro su 180 miliardi di PIL, quindi un'amministrazione tributaria tecnicamente fallita da questo punto di vista. È un popolo che sta votando rifiutandosi di pagare le tasse, perché vogliamo questo dire. Questo iniziamo tra poco a parlare di Grecia. Sentiamo intanto l'opinione di Tiziano da Bari, che vedo è collegato telefonicamente. Tiziano, ci sei? Sì, buongiorno. A tutti voi, è un piacere parlarvi. Niente, io volevo fare questa segnalazione, ma penso sia una cosa di dominio pubblico, ma ipocritamente non viene mai discussa. Noi abbiamo un sommerso altissimo, dovuto a evasione fiscale e attività ovviamente varie, che non può entrare in circolo, cioè da un po' di anni, da quando si è abbassato da 10.000 euro a fino a 1.000 euro la circolazione del contante, molto denaro è rimasto bloccato. Chi poteva l'ha portato all'estero, in stati che non si fanno, che hanno pelo sullo stomaco, che non si fanno troppi problemi, ma che ovviamente sono nel consesso internazionale, tranquillamente come tutti, come l'Italia, però loro prendono il nostro denaro e se lo fanno circolare senza problemi. Noi e quindi abbiamo... tu dici per agevolare l'entrata in circolo del nero, diresti leviamo ogni soglia di contatto? Ma leviamo ogni soglia per un anno, per due anni, facciamo una specie di zona franca, perché non è possibile, c'è gente anche che ha messo da parte tanti soldi negli anni, ha paura a tirarli fuori, perché deve andare a giustificare l'amministrazione finanziaria perché sta pagando, non so, sta acquistando un appartamento, perché sta pagando qualcosa, cioè ha timore, è terrorizzata. C'è uno stato di polizia a tutti gli effetti. Naturalmente, Tiziano, stai sfidando il nostro pubblico legalitario che dice che siamo amici degli evasori. Io aggiungo a quello che dice Tiziano, qualunque cosa ne possiate pensare voi in ascolto, Tiziano sta parlando di una misura temporanea per far emergere i capitali. Far emergere non fiscalmente, ma per far girare l'economia. Io aggiungo un altro aspetto che invece riguarda l'emersione legale. Grazie all'enorme pasticcio avvenuto alle agenzie tributarie per i 1000 dirigenti illegittimi, di cui 800 all'Agenzia delle Entrate, il cui ruolo nel procedimento dell'emersione dei capitali, della cosiddetta voluntary disclosure, cioè l'emersione volontaria di capitali detenuti soprattutto in Svizzera, ecco, i dirigenti nelle procedure hanno un ruolo importantissimo per come è costruito il provvedimento. Grazie all'enorme casino avvenuto e non riparato ancora nemmeno dal decreto del governo, in cui grazie al cielo è stata evitata la sanatoria, ma si proclama il principio di un concorso aperto quindi a tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e anche agli esterni, che però non avverrà prima di un anno con effetti tra due anni. Nel frattempo resta tutto paralizzato. E questo spiega perché a far domanda ufficiale per la voluntary disclosure a fine maggio erano non più di 1000 contribuenti. Quindi noi stiamo ritardando una misura assunta per legalizzare patrimoni e aiutare l'economia, e la ritardiamo perché lo Stato ha i dirigenti illegittimi. Ecco, diciamoci le cose come stanno. Però naturalmente questo è un altro tema un po' borderline, per così dire. Allora, come avete visto, non c'è nessuna soddisfazione, lo ripeto, da parte nostra. Noi tifiamo perché l'economia italiana si riprenda, ma detto tutto questo, attenti, perché su una ripresa già così raffreddata, come dice l'Istat, gli effetti di ciò che avviene domani in Grecia potrebbero essere ulteriormente raffreddanti. Ecco, usiamo questo termine non troppo preoccupante, e con questo ci sentiamo adesso tra un minuto e inizieremo a parlare direttamente della faccenda greca. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati diretta a 10.34, primi in questo caldissimo vetrocemento qua a Cibus Italia, all'Expo, dove siamo stati deportati, ovviamente. Sono circa 45 gradi nella pausa. Carlo Alberto Carnavale Maffè ha tentato di aprire uno snack, sì, al cioccolato. Degli snack liquidi al cioccolato, dei wafer liquidi al cioccolato, senza tovaglioli. Noi italiani abbiamo l'organizzazione nel sangue. Veramente una cosa adesso deprimente. Ce la facciamo misurare. Però detto tutto questo, cari ascoltatori, adesso con tono serio dobbiamo occuparci della vicenda serissima greca. Sapete tutto, quel che poche siete riusciti a capire, peraltro, perché ammetto che la confusione, a cominciare da molti economisti e poi media a seguire, è elevatissima. C'è chi è convinto che domani sia la più grande prova del suffragio popolare, della sovranità diretta contro i tecnici europei, c'è chi è convinto che la Grecia muore perché l'abbiamo soffocata noi, gli abbiamo dato solo 380 miliardi a un paese che ha 180 miliardi di PIL in 4 anni, per ridurla così, chi è convinto di tutto. Sta di fatto che domani i greci vanno al voto, 9 milioni e 800 mila elettori, il risultato è imprevedibile, possono vincere i sì di poco, possono vincere i no di poco, possono vincere i no di tanto, vedremo. Intanto facciamo un rapidissimo giro tra noi per un minuto a testa, capire un po' qual è la sintesi delle vostre opinioni e impressioni. Carlo Alberto. Ma questa non è democrazia, è plebiscitarismo spacciato per regola istituzionale. Tsipras ha diviso il paese dopo averlo illuso, ha diviso l'Europa dopo averla ingannata e ha trascinato la sua gente in un baratro che sarà difficile da recuperare. Il controllo dei capitali, che è cominciato una settimana fa, ma non sappiamo quanto durerà. Le banche sono le uniche vittime certe di questa irresponsabile scelta di portare il paese a uno scontro sul nulla, peraltro, perché non c'è una decisione che possa essere presa. È un'opinione così, è una specie di referendum non contro l'euro o pro l'euro, ma contro o meno un governo di, evidentemente di incapaci e di irresponsabili. Che però è diventato un idolo popolare dei dipendenti pubblici, dei pensionati, di coloro che hanno già sofferto l'altissima disoccupazione, di coloro che oggi non riescono a comprare i farmaci, eccetera, eccetera. Le banche, come sai, nel foro popolare sono considerate le strangolatrici, tu ne parli come vittime. Finché le chiudono, c'è poi dopodiché di fondo, piangono. C'è un punto di fondo che riguarda la richiesta di ristrutturazione del debito greco, che in realtà, a cui il Fondo Monetario è favorevole, a cui in realtà forse bisognava dare più attenzione fin dall'inizio, certo, perché questo è il punto di fondo. C'è un paese le cui strutture tecniche sono fallite. Perché poi tutti i piani di questi anni, impicchiamoci agli 0, di IVA in più, ma se l'amministrazione tributaria è fallita e il paese ha economia informale, tutto il sistema dei pagamenti tra privati è saltato, non è in grado di fare quasi nessuna riforma nel breve. Mario, tu che pensi? Sì, io penso che comunque vada, andrà male. Cioè, nel senso, quel caso della Grecia, diciamo, per concorsi di colpa, tecniche negoziali abbastanza sconcertanti, irrigidimenti, irrazionalità, mi fa pensare che con la Grecia andrà molto peggio prima di andare peggio, se devo adattare il mio famoso slogan del mio sito, e quindi temo che veramente sarà una cosa estremamente dolorosa e lacerante, non solo per i greci. Credo che le tecniche negoziali di Tsipras e Varoufakis siano sinceramente sconcertanti, cioè loro hanno praticamente capitalizzato, hanno creduto che fosse di avere la mano forte di carte, dicendo se saltiamo noi vi portiamo all'inferno con noi. Questo io non so se accadrà o meno. Mi sentirei di dire che forse si riesce a isolare qualcosa del genere, però noi abbiamo uno Stato fallito piantato in mezzo più o meno al Mediterraneo, e questo è un dato oggettivo, ma non da oggi. Esatto. Poi ripeto, io rimarcherei la situazione, perché insomma la Grecia è un paese che come entità e comunità nazionale ha negli ultimi 200 anni di storia è un defaulter seriale. È un paese che è entrato in avvicinamento nell'euro con dei deficit atroci, al netto del fatto che hanno truccato i conti, ma questo oramai è acqua passata che non macina più. È un paese che è strutturalmente incapace di darsi riforme, perché hanno un corporativismo malato che ricorda molto quello italiano, mi spiace dirlo perché poi la cosa diventa stucchevole, ma questo è oramai un dato oggettivo. Per cui io non so come andrà a finire. Io sinceramente sono sinceramente dispiaciuto per la popolazione greca. Non riesco a non pensare che gli eletti sono il prodotto degli elettori, e quindi io non riesco, diciamo, a dare esclusivamente la colpa agli eletti. Probabilmente io sono stato tra quanti, anche dialetticamente con Carlo Alberto, che era di posizione differente, ho detto ben venga questa sorta di referendum, purché sia chiaro che si tratta di un referendum per il mantenimento della moneta unica. Però mi rendo conto che pochi giorni prima, con una manipolazione assurda da parte di Tsipras, con l'assenza di garanzie secondo me su Brogli e quant'altro, su tutte queste altre cose, con un testo da approvare illeggibile, voglio dire, con un testo illeggibile superato dagli eventi, perché alla fine stiamo a discutere su una simulazione di piano di sostenibilità del debito che gli ultimi 6 anni hanno dimostrato essere scritto su carta, diciamo, non particolarmente alta e nobile, ma un altro tipo di carta. E per cui mi chiedo, cioè, forse devo fare a mia volta autocritica, dire forse questo non è esattamente un referendum sulla permanenza nell'euro, nel senso dovrebbe esserlo, probabilmente lo sarà, gli esiti saranno quelli, però è stato costruito in una maniera sinceramente manipolatoria, non fosse altro che per il brevissimo arco temporale. E poi ricorderei che il peggio probabilmente deve ancora venire, nel senso che c'è questo rischio di bail-in, no? Oggi il Financial Times, secondo me, non lo so, forse le fonti non sono pulitissime, sono un po' inquinate le fonti di quella notizia, sì, no? Cioè l'ipotesi di un bail-in del 30% su saldi di conto corrente superiori a 8.000 euro, traduciamolo in italiano, sì, cioè portare via il 30% dai conti correnti che superano gli 8.000 euro, greci. Conti correnti, depositi, verosimilmente anche obbligazioni bancarie dei greci. Quindi è chiaro che qui si sta veramente facendo un po' di inquinamento informativo, ha cominciato Tsipras, adesso vanno avanti probabilmente i banchieri, gli imprenditori greci, ovviamente per motivi di sopravvivenza, no? Non è che qui stiamo dando la caccia al malvagio che sta cercando di tirare acqua al proprio mulino. Il problema mulino. È che quando lo squilibrio domina, lo squilibrio esce fuori da tutte le parti. Lo squilibrio esce fuori anche a livello psichico, come si nota da alcuni commentatori italiani in questi ultimi giorni. E dai migranti italiani che vanno a supportare l'eroico governo greco nel sostenere la tesi del no. Dico la, bene, brigata, abbiamo... la nuova brigata Calimera. La brigata Calimera. Allora. Esattamente, se c'è un momento di chiudere le frontiere, scrivono. Poi più che altro sarà una brigata, cazzara con la cappa, diciamo, visti gli italiani coinvolti, però noi sappiamo, come diceva Flaiano, la situazione è grave ma non è seria, non ogni è volta seria. Che c'è di mezzo un allora, italiano. Ci dice Alberto da Lecce, cara Belva, l'Alba Dorata esiste in Grecia proprio perché c'è questa Europa che ha portato a questo referendum, cambiare questa Europa smonterebbe anche i populismi. Emilio ci dice, il signor Tsipras sa benissimo che non può esimersi da accettare le condizioni dell'Unione Europea, ma per non far fare brutta figura con il suo elettorato, date le promesse fatte al popolo, delega la decisione alla gente, ergo se ne lava le mani e si discolpa. Poi Simone da Firenze, che è in collegamento telefonico, come la pensa Simone? Buongiorno, io buongiorno. Credo che i greci siano principalmente vittima di loro stessi per aver speso molto più delle loro capacità e fin qui non avrei tanto dispiacere che siano, diciamo, soggetti alle conseguenze dei loro stessi comportamenti. Simone, ricordiamo a chi è in ascolto, forse non lo sa, che su 30 anni, dall'85 al 2015, 30 anni di conti pubblici greci, la spesa pubblica greca ha superato nell'anno 13 volte su 30 di più di 10 punti di PIL il totale delle entrate pubbliche di quello stesso anno. 13 volte su 30 dall'85 al 2015. Vai Simone. Se questo è vero, vorrei anche però che l'informazione ci rendesse dotti di chi sono i banchieri che in tutti questi anni hanno prestato soldi ad un debitore insolvibile fin dal primo momento, e non c'è solo la Grecia. E vorrei sapere anche come mai il debito, i crediti inesigibili di banche private poi vengono spalmate sul debito pubblico. Beh, allora, se le banche devono fare profitti privati e addossare a tutti noi le loro perdite, tanto vale nazionalizzarle. Simone, però non ci sfugga il fatto che nel salvataggio del 2012 alla Grecia è stato concesso un taglio di quasi il 60% del valore dell'allora suo debito pubblico, pari a 100 miliardi di euro dell'epoca, che era debito pubblico greco detenuto da privati. Il problema c'è adesso proprio perché dei 320 miliardi, quasi il 90% è nelle mani di creditori pubblici e non di banche. La polemica sulle banche francesi e tedesche che hanno prestato molto ai greci e poi sono rientrati non appartiene a questa fase del problema greco. E comunque sul 60% di valore in meno ai creditori privati della Grecia, e questa roba qua l'abbiamo fatta. Quindi insomma chi ha prestato e non è rientrato ci ha rimesso un bel po', come dire. Quindi non è che abbiamo salvato i privati per buttarlo sullo Stato. Adesso sono gli Stati che non vogliono ristrutturare il debito pubblico greco che hanno nelle mani. Abbiamo un testimone importante, il primo dei due a cui abbiamo chiesto oggi di raccontarci l'aria che tira in Grecia a poche ore dall'apertura delle urne, è una figura particolare perché è l'amministratore delegato di Pirelli in Grecia ed è un greco, Dimitri Papadakos. Buongiorno e grazie di essere con noi, Dimitri. Buongiorno. Allora, posso chiederle l'aria in questi ultimi giorni per le imprese che operano ad Atene con il sistema dei pagamenti delle banche bloccato, che aria è diventata e che cosa si avverte? Non le chiedo un'opinione politica sul referendum, semplicemente le difficoltà, che ci descrive le difficoltà che si sono accentuate in questa settimana e che cosa prevedete per il dopo? Sono settimane particolari e vorrei dividere le società greche in due settori, quelli che sono importatori, praticamente aziende locali greche e le società multinazionali. Quelli importatori, le società greche, praticamente non possono più importare i loro prodotti perché con quel divieto e la chiusura delle banche non possono esportare cambio, praticamente non possono comprare niente all'estero. Allora questa è anche la ragione del panico che probabilmente avete sentito settimana scorsa, che tutti corrono ai supermercati a comprare prodotti, soprattutto importati, anche se in Grecia ho difficoltà di trovare prodotti che si producono localmente, perché la Grecia negli ultimi anni produce solo turismo e basta. Allora tutti comprano, praticamente portano a casa dei prodotti che li serviranno per i prossimi probabilmente 6-7 mesi. Lo stesso succede anche al consumo della benzina. Le imprese, diciamo, sono preoccupatissime perché una volta che finisce lo stock che hanno non possono rifornirsi di prodotti. Dall'altra parte, dopo le ultime notizie, per noi non notizie di ieri, quella di Financial Times, è una voce che gira già da una settimana, il bail-in dei conti, sì, bancari ci ha portato a non usare più nessuna transazione bancaria per i pagamenti, perché nessuno si vuole trovare il giorno domani con un conto bancario gonfio. Allora è ritornato come alle vecchie epoche, diciamo, tutti i pagamenti cash, contanti. Lo stesso lo Stato, siccome prima c'era una legge che nessuna transazione commerciale più di 500 euro si poteva fare via cash, ha annullato questa legge, diciamo, tenendo le circostanze e le condizioni attuali. Allora tutti hanno ricominciato a fare le loro transazioni commerciali con cash. Una cosa pericolosa è che, diciamo, che l'evasione di fisco comincia a essere ancora più alta, possiamo immaginare. Abbiamo ulteriormente spinto un paese che ha un enorme problema di economia informale, cioè sotto la linea, a ulteriormente diventare totalmente informale sotto la linea fiscale. È così? Esatto. Le previsioni per il futuro, secondo lei? Veramente non so che cosa dirle, perché non so che può succedere lunedì dopo il risultato del referendum, non so neanche se sarà sì o no, ma onestamente qualunque sia il risultato non è chiaro quello che succederà il giorno dopo. Questi giorni esistono dichiarazioni da una parte di tranquillità e dall'altra parte di panico, potete immaginare il perché, dipende certo chi le fa. In ogni caso credo che le cose non si nel miglior dei casi per 3-4 mesi continueremo così, le banche grenche secondo me non apriranno prima della fine di luglio, se tutto va bene, questo è una previsione ottimista ma personale, poi spero che mi sbaglio, così aprono anche molto prima, e c'è molta gente che ha dei conti bancari, perché a questo momento non dimentichiamo che nelle banche greche sono rimasti più di 100 miliardi di depositi. Allora c'è gente che è preoccupatissima, gente che si è fidata del sistema e ha lasciato i soldi dentro. Vediamo, non lo so, è vero che il consumo sta vicino al zero sui prodotti, diciamo, che non sono quelli dei supermercati e dei benzinai. Nessuno consumano solo le cose dispensabili, basta. E le cose che possono pagare ovviamente in contante. Va bene, io ringrazio intanto moltissimo Dimitri Papadakos, l'amministratore delegato per la Grecia. Auguri, speriamo che le cose vadano per il meglio. Noi torniamo tra un minuto con le vostre telefonate e un altro testimone, un altro amministratore di un gruppo italiano che lavora in Grecia, che ci dice come sta vedendo le cose lui in questi giorni. A tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta. Il nostro inno, che alcuni continuano a non piacere perché è fatto sul fatto che l'Italia muore di tasse. Beh, insomma, povera Grecia, sta morendo di tutt'altro, ma di tasse non pagate, per così dire, di troppa spesa, di troppo parassitismo pubblico e di una grande colossale illusione. Chavismo in Europa, in un paese che non ha manifattura, non esporta, ha solo il turismo, con enorme presenza pubblica, un sistema pensionale riformato due volte ma la cui attuazione della riforma è al 2035, e l'ideologia che a quel punto si scatena. Posso dire anche una cosa, questo attacco ideologico alle banche che sta andando avanti da decenni e le usa, e in parte ha ragione, ecco, come puntura di spillo per certi comportamenti inaccettabili, però c'è da dire una cosa: senza le banche un'economia non funziona, le banche sono un'istituzione, e se non si difende culturalmente e ideologicamente il ruolo di una banca, non di una specifica banca, ma delle banche come sistema di circolazione del denaro, noi facciamo affondare l'economia di un paese. Nel caso della Grecia, purtroppo, penso che ormai il limite sia stato superato. Le banche greche non si risolveranno, ma non per il mese di luglio, Oscar. Io mi aspetto mesi di estrema difficoltà. Cipro ha levato i controlli del capitale nelle ultime settimane dopo due anni. Io devo dare una risposta. Molti ascoltatori continuano a dire: è una balla i 380 miliardi. Allora, Io ho pubblicato ieri l'articolo, secondo me più comprensibile anche ai non tecnici, che spiega le diverse tranche con cui si arriva a quei 380 miliardi nei due programmi di assistenza speciale. Vedrete che non è una balla, che tra aiuti e finanziamenti quella è la cifra che abbiamo dato in 4 anni e mezzo alla Grecia. Mi rendo conto, vi potrà sembrare paradossale che un paese di 180 miliardi, se gliene dai 380, sta in ginocchio, ma voi continuate a dimenticare il debito che aveva, che gli abbiamo tagliato, e così via. Quindi gli abbiamo dato un pacco di soldi, poi gli abbiamo chiesto di fare cose probabilmente irrealizzabili, e il problema della ristrutturazione del debito resta. Quindi, come vedete, mica dico che l'Unione Europea, questi 6 mesi di trattativa sono stati totalmente risibili, però resta il fatto che non vedere che la Grecia è un paese fallito di fatto, questo non significa mancare di rispetto alla cultura, a Platone, ad Aristotele, significa guardare i fatti come sono. Io guarderei anche al presente, no? Oltre a Platone e Aristotele, scusate, perché se allora, non ne usciamo più. Sentiamo Marcello da Modena, prego Marcello. Ci sei? Sì, pronto, io volevo chiamare in questo senso. Io sono un bancario e quindi purtroppo in questi periodi spesso mi trovo ad essere un creditore, tra virgolette, di debitori che possono anche essere insolventi o con grosse enormi difficoltà. L'idea che mi sono fatto io in questo caso è che se io mi fossi sempre comportato da se la banca si fosse sempre comportata da creditrice come si sta comportando la Germania, non avrei mai recuperato un euro dei miei crediti, diciamo, di difficile recupero. Cioè, i tuoi clienti, se applicassi solo il rating e le garanzie reali in un'economia che va male, se applicassi il metodo traduttivo della Germania, non avrei recuperato nulla, penso. Allo stesso Ci stai facendo capire che la ristrutturazione del debito greco ha un suo fondamento rispetto alle condizioni, a quello che può produrre anche al meglio la Grecia in pochi anni. Marcello, traduco quello che ci hai detto. Esatto, io ti ringrazio per questo. Da bancario abbiamo il nostro secondo testimone, per così dire, l'amministratore e direttore del gruppo Bonatesta, che opera da 25 anni anche in Grecia, opera nei trasporti marittimi tra la Grecia e l'Italia. Si chiama Giovanni Bonatesta, grazie di essere con noi, e ci dica subito dal suo osservatorio come si sono messe le cose in questi giorni, quali le difficoltà e cosa spera. Sì, pronto? Eccoci, grazie. Salve, buongiorno a tutti. Niente, come primo io volevo chiaramente far presente quelle che sono le preoccupazioni di questa debolezza, che di riflesso potrebbe colpire l'Italia come la Spagna, il Portogallo e il Cipro. Sperando che appunto questo non accada all'uscita dall'euro della Grecia, perché tra diciamo come posizione da imprenditore, che ho basato gran parte della mia attività in Grecia, non può che essere solidale ed empatica con ciò che un paese così vicino sta vivendo, insomma, tenuto conto io sono su Brindisi e chiaramente frontaliero con la Grecia, insomma, traffici da oltre 25 anni si sono sempre fatti. Perché ci preoccupa intanto il problema di versante finanziario, perché abbiamo noi delle esposizioni su quel territorio e abbiamo l'incertezza di incasso da parte dei clienti greci e quant'altro, che questo ci preoccupa. Del resto chiaramente l'apprensione proprio è dovuta principalmente al recupero del credito, però poi diciamo, non essendo un politico, ma qualche riflessione l'ho fatta, il perché e per come la Grecia, sì, ma come potrà accadere in Italia o Portogallo e Spagna, e ritengo che non si è mai visto in particolare quello che ha causato l'ingresso in Europa di paesi ritenuti più poveri, paesi dell'est, che al momento hanno l'opportunità di poter incrementare le loro attività e hanno dislocato tutte le imprese, maggior parte delle imprese greche, italiane e quant'altro, sui loro territori, perché hanno una normativa dal punto di vista fiscale più permissiva. Questo secondo me... Allora Giovanni ci fa riflettere sul fatto che, come la grande linea dell'espansione dell'Unione Europea e dell'Euroarea, quella voluta dalla Commissione guidata da Romano Prodi all'inizio e poi attuata da chi gli è venuto dopo, ha accentuato gli effetti di asimmetria, perché chi ha costi ed equilibri fiscali più bassi dei nostri, ovviamente, ha messo ulteriormente in crisi le asimmetrie di questa Europa. Fa bene Giovanni Bonatesta, lo ringraziamo per avercelo ricordato. Le telefonate vostre le mandiamo in onda dopo, perché intanto adesso ci torniamo. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Della belva. Ed eccoci, planiamo come uno stormo di caccia impicchiata sul vostro sabato caldissimo, i compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar. Abbiamo tentato di darvi testimonianze aggiuntive sulla Grecia da parte di imprenditori che vi hanno testimoniato cosa vuol dire avere un sistema di pagamenti bloccato, cioè si paralizza un paese, lo si consegna all'economia informale, non gli si consente più di importare, un paese che produce di proprio molto poco. Botta terrificante al turismo, la sua vera ricchezza, perché ovviamente iniziano ad arrivare le cancellazioni in massa. Insomma, un vero disastro. Sentiamo qualche telefonata. Cominciamo con Mario da Milano. Mario, prego. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Non vorrei essere fuori tema, ma io chiamavo per portare l'argomento delle privatizzazioni, delle quotazioni, delle imminenti quotazioni in borsa. Di Poste, che è benvenuto, benvenuto. Ci dica. Ma vi dico, io onestamente, sarà che non sono un economista, però cerco di capire cosa mi succede attorno. Io, lo fanno anche gli economisti, capisco, con fatica. Non tutti. Con molta fatica. Non le capisco queste privatizzazioni fatte in questo modo, perché io non capisco quale sia il fine di queste privatizzazioni. Incassare qualcosa. Esatto, fare cassa. Sappiamo che le Poste è turlupinare gli azionisti. Perché le Poste è un asset importante che porta rendimenti, quindi noi lo portiamo in borsa per far cosa? Per incassare un tot, una quota del 40%, per farci cosa? Cioè io non vorrei che questo 40% delle Poste finisca, non lo so, nella classica siringa pagata 2,50 euro. Non lo so, quindi, Mario, lo Stato incassa, il punto vero è che lo Stato incassa senza separare attività sussidiate da ex servizio universale e monopolio, cioè quelle di consegna, per cui gli diamo miliardi l'anno, che vanno a beneficio di un'attività in concorrenza al sistema bancario e assicurativo, che è quella che dà i miliardi veri di esercizio in bilancio a Poste, lo fa senza separare quindi attività di mercato da attività sussidiate. E quindi, in quanto tale, regala, per così dire, mette a carico dei privati che sottoscriveranno il titolo, lui ci becca l'incasso, però gli regala un enorme conflitto di interessi. E questo è sbagliato, e noi per questo critichiamo. Sentiamo Vitalba da Roma, che credo che sia sullo stesso tema. Vitalba, prego. Sì, buongiorno. Ecco, io penso che in materia di partecipate sia proprio evidente che il governo non vuole cambiare il verso, nel senso che comunque quest'anno, con la legge di stabilità di dicembre, si è di nuovo intanto annullato totalmente tutto il lavoro che era stato fatto dal commissario Cottarelli, che aveva fissato anche dei criteri precisi, e quindi non lasciando alla discrezionalità delle amministrazioni la possibilità di dismettere le partecipate. Quindi si è totalmente annullato tutto il criterio, la selezione che lui aveva già preventivamente fatto, e si è di nuovo concessa un'ulteriore proroga, andiamo avanti con le proroghe dal 2007, con un meccanismo molto artificioso che diciamo è volto in qualche maniera a stimolare questa sorta di proroga ulteriore, cioè si è detto che le amministrazioni entro il 31 marzo dovevano redigere una relazione operativa indicando tutte le società da dismettere. L'hanno che dovevano fatto? Qualcuna, perché ma le altre che non hanno risposto tanto non avevano nessuna sanzione. Che meraviglia. No, ma il bello è che questo, secondo il legislatore nazionale, no, tutto questo processo di dismissione dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre del 2015, e a marzo 2016 ne deve essere data evidenza alla Corte dei Conti peraltro senza che alla Corte dei Conti sia conferito alcun potere nel caso, esatto, in cui veda che comunque, ecco, il tutto brava, con criteri totalmente brava, discrezionali, mentre senza sanzioni e equazioni, esatto, senza sono le solite... con la massima discrezionalità e con, allora, Vitalba ci ha sono le cose solite, noi l'abbiamo riconosciuta. Vitalba è una che si professionalmente sa di cosa parla. Ciao, un saluto. E ci ha introdotto esattamente al secondo blocco di argomenti, che è quello delle municipalizzate, perché di questo stava parlando Vitalba, delle municipalizzate che marzo-aprile del 2014 Cottarelli, uno dei suoi gruppi di lavoro, ci regala un bel po' di slide con 55 proposte concrete operative da rendere immediatamente attuative sulle partecipate. Premessa, non continuiamo a non sapere neanche quante sono, perché il MEF dice 7.726 al 2012, la banca dati del Dipartimento Pari Opportunità Presenza del Consiglio dice 10.000, il numero esatto non è conosciuto, ma diciamo è superiore alle 12.000, per così dire. In Francia sono 1.000, la Francia dello statalismo dirigista sono 1.000, e le proposte di Cottarelli erano per diverse classi di problemi, per così dire, nel senso che diceva che le 3.000 partecipate con meno di 6.000 dipendenti, come ovvio, non avevano senso, le 1.300 con un fatturato inferiore a 100.000 euro non avevano senso, le 2.600 con un fatturato inferiore al milione non avevano senso, e quindi proponeva misure precise, operative, per fare in buona sostanza tre cose: A, cedere; B, accorpare; C, razionalizzare, con un bel programmino di costi che si sarebbero risparmiati. Niente di tutto questo è avvenuto, e quello che a noi appare evidente è che c'è un grande patto tra il governo e l'ANCI, perché nelle more dei tagli, dei trasferimenti ai bilanci locali, che poi vengono recuperati con gli aumenti di imposizione immobiliare, ma che non soddisfano comunque i tagli ai comuni, l'ANCI ha detto al governo: caro mio, almeno sulle partecipate non ci rompi le scatole. Allora, per questo abbiamo chiesto al sindaco di Ascoli e delegato dell'ANCI alla finanza locale, Guido Castelli, di dirci, naturalmente non sarà così, però noi continuiamo ad avere cose come l'ATAC di Roma che ha macchinisti che lavorano 736 ore l'anno, a Napoli 1000 ore l'anno, a Milano 1200 ore l'anno, l'ATAC 1 miliardo e 200 milioni di perdite in 5 anni, scioperi continui perché il personale dice che non bisogna adeguarsi ai criteri efficientistici e che il problema non è loro, che la società perde, e tutto questo continua ad andare avanti. Allora, grazie al sindaco di Ascoli, con cui cominciamo questa riflessione sulle partecipate locali, ci dica: questo patto tra l'ANCI, voi e il governo per non toccarvi le partecipate, le municipalizzate, c'è o non c'è? È un pezzo di questa leggenda nera sulle partecipate che sicuramente, caro dottor Giannino, non rappresentano un'arcadia di efficienza, ma che non hanno neanche quei tratti gotici di leggende nere su cui anche con troppa facilità si scivola nel dibattito politico. Siamo più allora... sul fumetto pop, caro sindaco. Io cito i dati, guarda... di Cottarelli, però. Cottarelli, che assolutamente onoro e ricordo come una persona estremamente seria, però quando parla di 8.000 società dette, dovrebbe dirci quali sono, quante sono, quali sono quelle che vanno bene e quelle che vanno male. Ciò che io contesto è questa valutazione hegeliana delle partecipate come della notte in cui tutte le vacche sono nere, perché dati alla mano ci sono molte partecipate. No, temo che però lei sia un hegeliano che dice che ciò che è reale, cioè c'è, è razionale, mentre a me pare che... Assolutamente, tanto è vero, noi abbiamo contestato l'atteggiamento che il governo ha riversato rispetto al problema della legge di stabilità per l'anno 2015, che la dottoressa Vitalba prima ricordava, dicendo: guardate, non è attraverso questo cedimento alla, come dire, allo storytelling della leggenda nera che si risolvono i problemi. Tanto è vero, parlo dei piani come attraverso tre semplicissimi passaggi, che sono semplici a dirsi evidentemente, Giannino. Prima cosa: vogliamo dire finalmente no al socialismo municipale? Mi iscrivo a questo partito. Questo vuol dire che bisogna definire norme, poche possibilmente generali, sugli ambiti economici in cui il pubblico può legittimamente intervenire, così si stabilisce cosa si può fare e cosa non si può fare. Dello sa che ai tempi di Giolitti, che introdusse le municipalizzate al nostro ordinamento, i comuni dovevano deliberare cose su cui si potevano chiamare i cittadini nei referendum, ai tempi di Giolitti, 1903. Benissimo, evviva Giolitti. Questo vuol dire che il problema non è tanto passare da 8.000 a 1.000, è passare da 100 norme a 5 norme, ovvero quali sono i segmenti e quali sono le regole. Non è semplice, ma è molto più semplice che fare queste cose strambe del piano operativo che doveva essere approvato entro il 31 marzo, poi verificato a giugno del 2016, e mentre queste cose noi stiamo cercando, ripeto, con chi è più bravo e chi è molto meno bravo, perché lungi da me pensare, ripeto, che sia l'Arcadia il mondo delle partecipate, già il governo ci ha ripensato e nel corso della lettura in Senato della delega sulla PA già si stanno cambiando le regole. Ecco, questo sicuramente non va fatto. Allora vogliamo pensare a incentivi o obblighi per alienarle le partecipate? Perché la Vitalba parlava dell'esito di questi piani. Noi, come IFEL, Centro Studi dell'ANCI, abbiamo fatto dei ragionamenti. Allora, sono circa 85 i comuni capoluogo che hanno presentato questo piano. Sai cosa è andato? Che c'è stata in tutti 100% di questi piani si onora il principio moralistico della riduzione dei compensi, 100% ridurre i compensi, bene, tutto per carità, riduzione delle partecipazioni il 90%, quasi tutti prevedono la riduzione delle partecipazioni, ma guarda caso, la cosa più importante, fusioni, accorpamenti, dismissioni, meno del 10%. Esatto. E questa impostazione non genera meccanismi incentivanti o compulsivi di accorpamento, Le faccio una domanda, perché la percentuale che riporta è esattamente quella che torna anche a noi, esattamente così. Quello che manca, prego, dal punto di vista vostro, suo personale come sindaco di Ascoli e poi delegato ANCI, quello che manca sono incentivi per fare gli accorpamenti, per razionalizzare e le dismissioni, o quello che manca sono le sanzioni per chi non lo fa? Allora, si vogliono tutti e due, perché guardi, se lei mi dice che la destinazione dei proventi di queste dismissioni sono esenti dal patto di stabilità, questa cosa astrusa e cerquellotica, io sindaco posso farlo con più convinzione e comunque lo faccio prescindere. Se lei mi dice che c'è un trattamento fiscale delle plusvalenze che è migliore di quello di cui gode magari un'altra società privatistica, io allora ci posso pensare anche con più attenzione, più che, come dire... Lei mi ha fatto due esempi di incentivi però, di sanzioni nessuno. Ma no, io dico che le sanzioni già ci sono, perché guarda, se c'è una cosa che il MEF agita con particolare attenzione, è sanzioni di ogni genere, però... Non agita, ma nel nostro ordinamento non ci sono, le agita, guardi, l'attività agitatoria, i moti browniani sono quelli della nostra pubblica amministrazione. Lei mi insegna da liberare che i fenomeni vanno anche generati, ad esempio, cercando di capire che delle 8.000, un conto sono quelle che fanno servizi pubblici locali, su cui bisognerebbe orientare. Altro sono le famose strumentali, che sono le società che di fatto sono pezzi di comune esternalizzato, in cui il problema, se vogliamo cancellarle tutte, basta un tratto di penna, è solo capire come garantire ammortizzatori sociali per qualche centinaia di migliaia di persone che ci lavora, perché la realtà, onestamente, qual è stata? Che i comuni che avevano vincoli al reclutamento di personale hanno fatto per aggirarli. Se però noi riusciamo a gestire le ricadute occupazionali, salvaguardando, attenzione, però anche il valore attualmente creato da alcuni organismi partecipati, perché lei sa che su Studio Mediobanca, su 115 comuni più grandi, le società che si occupano di servizi pubblici locali, prevalentemente energia, hanno un utile d'esercizio che è 1.300.000.000, quindi non facciamo neanche le privatizzazioni che vanno nel senso di arricchire chi magari sa esercitare le relazioni capitalistiche, come dice il Premier, nel modo migliore. Discorso a parte, il TPL, che è una vera tragedia. È una vera tragedia nazionale. Infatti, devo dire la verità, anch'io sono per distinguere i settori, cioè l'energia da una parte, dove abbiamo grandi pubbliche quotate, discutibili, ma ce le abbiamo, e poi soprattutto con un ritorno del capitale non molto ingente, molto elevato. Il TPL, che è un problema nazionale che andrebbe affrontato, perché quello è un'intera filiera da ristrutturare per le centinaia di aziende che non potrebbero stare in piedi. Poi abbiamo migliaia di società, alcune delle quali nate per mascherare, per così dire, l'obbligo a non assumere, e anche per avere più libertà contabile, per così dire, quindi anche lì. Però su queste almeno le sanzioni oltre agli incentivi bisognerebbe che ci fossero. Dal governo mi dicono, con l'ANCI non è possibile, abbiamo troppe partite aperte, non lo faremo mai. È così o no? Il problema, noi abbiamo voluto esprimere un paradosso. Spesso e volentieri dietro le sanzioni ci sono dei vincoli che vengono, come dire, frapposti alle attività di queste società strumentali, che in realtà sono veramente molto Perché? Perché si va nel senso, quando si va avanti con questi vincoli, di rendere le società pubbliche soggette a regole di enti pubblici, ovvero si cerca di pervadere di regole, regolicchie e cose nuove le società che hanno certe caratteristiche. Dovremmo fare il contrario. Lei dice le società le abbiamo esternalizzate per assumere, per avere libertà contabile. Andiamo verso il privato, Giannino mi vuole far tornare pubblico. E ho capito, però, caro sindaco di Ascoli, così noi continueremo ad averle. Però io lo sapevo che lei è un abilissimo ragionatore e abbiamo offerto ai nostri ascoltatori un pezzo delle difficoltà ordinamentali per cui noi continuiamo ad avere migliaia di società difformi tra loro e che però molte migliaia di casi andrebbero sottoposte a un regime di scelta molto netta. Grazie intanto al sindaco di Ascoli, torniamo sullo stesso argomento tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, 11:22 primi, l'intera compagnia dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Renato. Oscar. Abbiamo sentito dal roccioso, amabilissimo ragionatore, il sindaco di Ascoli, delegato dell'ANCI della finanza locale, per quale ragione insomma l'ANCI continua a non avere alcun accordo sul governo, sui criteri per intervenire sulle partecipate locali. Gli argomenti sono tanti e diversi, il trasporto pubblico locale non va. Ma una cosa è chiara, il conflitto di interesse della politica è sempre lì, perché è come chiedere a Bertoldo di scegliere l'albero a cui essere impiccato. Beh, ma gli hanno fatto la legge per diminuire le partecipate, gli hanno detto quando volete, se avete tempo, sì, e se vi ricordate. E soprattutto se non lo fate, chi se ne frega? Questo è il punto. Sì, ma è quasi simile agli obblighi di noi contribuenti, no? Se ce lo ricordiamo, mica se ci succede niente se non lo facciamo. Cioè lo Stato, cari ascoltatori, applica a se stesso come sempre regole asimmetriche, perché noi siamo dei sudditi e lui può tutto, decide lui quando, se e come gli conviene. Tanto non succede niente se non lo fa. Tanto non succede niente. Tanto ogni venerdì che Dio manda in terra, l'ATAC fa sciopero a Roma, perché, ripeto, perde 1,2 miliardi in 5 anni, contando sul fatto che viene ripianato anche se i macchinisti lavorano per contratto 736 ore l'anno, mentre a Milano 1,2. A Milano, che volete che vi dica? La TM ha i conti col segno più. L'ATAC li ha col conto col segno meno. Però loro hanno ragione e noi gli ripianiamo il salvadebiti a Roma una volta per 14 miliardi. Gli diamo 800 milioni, ma... poi com'è che è tutta la trasmissione che andiamo avanti con della gente che spende più di quanto incassa? E chissà com'è, perché pensiamo che siano solo i greci, mentre invece il problema è anche, per così dire, caro Mario, un po' nostro. No, è la famosa magna magna Grecia. La magna magna, che adesso sembra una battuta razzista, contro i greci, no, ma per e carità. Contro Demida. No, contro esatto, no, assolutamente. No, ma sai, mi adeguo, visto che c'è qualche piccolo idiota che scrive noi facciamo analisi approfondite dove è tutta colpa dei greci, dimostrando di aver capito tutto, io quindi cerco di portare al suo livello, ecco. Va bene, allora sentiamo innanzitutto qualche ascoltatore, perché adesso vi daremo invece un sindaco che, a differenza del sindaco di Ascoli, ha fatto in proprio e ha deciso, vabbè, intanto il sistema Italia vada dove vuole, io prendo un'altra strada, ed è un po' interessante capire che c'è anche chi ragiona così. Sentiamo però innanzitutto qualche telefonata, siamo ancora sulla Grecia, credo. Luca da Roma. Luca, prego, come la pensi? Buongiorno Oscar, buongiorno ai suoi collaboratori. Io volevo... No, che collaboratori? Questo... Collaboratori domestici, diciamola tutta. Badanti, io appena badanti torno a casa la scopa elettrica non me la leva nessuno. Questi hanno redditi e titoli che io mi sogno. Quali collaboratori? Allora vai Luca, vai Luca. Vi volevo cercare di riflettere su una cosa. Allora, io sono un militare. Ultimamente sul discorso greco mi sto preoccupando, perché non ho sentito ancora nessuno bravo. Che sta pensando a questa eventualità. Siccome io quando ero piccolo mi ricordo i colonnelli in Grecia, e siccome dall'interno so come, che mentalità hanno i militari e come la pensano, ovviamente... Ovviamente una cosa assolutamente non auspicabile, chiaramente. No, chiaro. Attenzione, perché questa cosa qua è una cosa strisciante. Allora, per così dire, Luca ci sta richiamando l'attenzione su due aspetti. Primo, per quello che succede nel Mediterraneo, insomma, la Grecia è nella NATO, la Turchia è nella NATO, Turchia e Grecia da sempre in tensione, i turchi adesso chiudono un occhio pro ISIS, questa è l'amara verità, ed Erdogan è su, per così dire, per una tangente un po' pericolosa. Il risultato ha effetti non solo sull'Unione Europea ma anche sugli allineamenti internazionali della Grecia. A. B. I militari greci come la pensano? Noi non lo sappiamo, però c'è una storia alle spalle. Grazie Luca, perché sono due aspetti che avevamo in effetti trascurato. Paolo da Roma, come la pensa Paolo? Sì, buona giornata, però dici come la pensi. Prego. Ho sentito prima un intervento, non mi ricordo di uno di voi, il sì. quale diceva soltanto... È caduta la linea di Paolo. Accidenti, però oppure... è interessante perché ci diceva uno di voi che uno dice... di voi censura. No, questo è un palese caso di censura contro la libertà di espressione, scherziamo. Contro di noi. Contro, esatto. Questa è censura. Allora, tra i nostri ascoltatori devo dire che però non mancano in molti SMS che dicono fuori da questa Europa. C'è chi chiede: se applicassero il bail-in in Italia cosa accadrebbe? Attenzione che accadrebbe quello che è già stabilito per le norme, che come vi avevamo già detto puntate fa, le banche dovrebbero informarvi che noi ci siamo adeguati alla nuova direttiva post Cipro, per cui le banche dovrebbero dirvi che in caso di fallimento bancario, caro Alberto correggimi se sbaglio, gli azionisti pagano, gli obbligazionisti pagano, tranne diciamo, i signores. Dopodiché si può arrivare anche al fatto che i conti e i conti superiori ai 100.000 pagano pure quelli. Beh, esatto, la colpa è delle banche. Però i nostri parlamentari si sono accorti ora, esatto, che adesso è in discussione il recepimento di quella direttiva di risoluzione bancaria approvata l'altro ieri, esatto, ma praticamente a 2 anni di distanza dalla presentazione e dall'introduzione ci sono un sacco di arruffapopolo che urlano e anche qualche organo di stampa che si sta praticamente esibendo in questo aspetto. Va bene, allora noi ci abbiamo adesso il sindaco di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, Alfredo Posenato, che gli chiediamo adesso un minuto, perché poi dopo continuiamo con lui, però in un minuto, Alfredo Posenato, grazie di essere con noi. Tu cosa hai fatto nel tuo comune sulla municipalizzata? Ma guarda, innanzitutto, se mi è permesso un commento, trovo assolutamente scandaloso che lo Stato non abbia contezza di quante siano le società, che quindi ci sia questa confusione sui numeri da 7.500 a 12.000, trovo una cosa assolutamente inaccettabile. Pensa se un contribuente dicesse: il mio imponibile, boh, non lo so caro Stato, 7.000, 12.000, lo Stato ti fa il culo come una capanna. Però è una cosa, una prima cosa che trovo assolutamente intollerabile. Ma dal canto nostro, dovendoci dibattere in una situazione dove le disponibilità sono anno dopo anno sempre più scarse, dove i tagli da parte dello Stato sono anno dopo anno più pesanti, dobbiamo inventarci anche con un po' di fantasia delle soluzioni che ci permettano di farci bastare le risorse che sono disponibili prima di dover necessariamente iniziare a tagliare i servizi. Non posso negare che qualche attività in questo senso l'abbiamo fatta, per esempio non tanto sul fronte delle municipalizzate, dove il nostro è un comune di dimensioni relativamente piccole, 12.500 abitanti, ma semmai sul discorso dei lavori pubblici, dove stiamo ricorrendo ad esempio ai cosiddetti LSU, lavoratori socialmente utili, attingendo dalle liste dell'INPS quei lavoratori che sono iscritti nelle liste di mobilità e quindi utilizzando questi soggetti per una serie di lavori manutentivi che diversamente dovrebbero essere svolti a titolo oneroso o peggio ancora, come non sempre più frequentemente accade, non svolti affatto, quindi lasciando i territori in stato di abbandono. Ottimo, e quindi voi fate il meglio. Ma sulla raccolta rifiuti, che scelta avete fatto? Sulla raccolta rifiuti, a dire il vero, non abbiamo ancora compiuto una scelta, nel senso che noi abbiamo un comune vicino a noi che molto coraggiosamente ha fatto una scelta straordinariamente innovativa, quindi ha deciso di gestirsela in maniera diretta, bypassando la municipalizzata di riferimento. Oh. Noi la stiamo osservando con grande attenzione. Non nego che ci sono ancora dei ricorsi pendenti e quindi stiamo guardando questa ipotesi con estremo interesse, in attesa di avere certezza che sia sotto un profilo legale del tutto rispettabile, che quindi consenta di essere adottata. Se questo fosse definitivamente provato, non nego che sarei orientato anch'io a questa scelta. Perché ci si può organizzare sull'offerta di servizi fatta in proprio con i propri dipendenti, a quel punto, senza incorrere in efficienze eterogenerate dalle municipalizzate, aumentando l'efficienza del servizio, abbassando i costi perché si ottimizza l'utilizzo dei dipendenti e abbassando le tasse anche ai contribuenti, è così? Modello di riferimento al quale noi stiamo guardando. Nel frattempo, non nego, siamo passati finalmente pochi mesi fa al porta a porta e già questo ci sta portando significativi benefici, soprattutto in termini di decoro urbano e di igiene, ma riteniamo anche alla fine in termini economici. Ecco, allora, si può fare diversamente, naturalmente questo non significa nelle grandi metropoli, eccetera, eccetera, però la dimostrazione è che chi dal basso ha un po' di idee, sa fare quattro conti, perché il nostro amico è anche un imprenditore, è in grado di dimostrarvi che il Moloch dello Stato senza alternative, mangia soldi a basse prestazioni e di solito presentato come privo di alternative, le alternative le ha, rispettando chi paga, rispettando chi vuole un servizio, con l'equilibrio dei conti e sbaraccando migliaia di mangia dei partiti. Le municipalizzate ci sono per questo, servono a far affluire nelle casse dei partiti, degli amici dei sindaci, di destra, di sinistra, uno schifo. Questo è il punto vero, cari ascoltatori, che naturalmente penserete che Giannino è un semplificatore, è un demagogo. I demagoghi sono quelli che vi dicono che non ci sono alternative, a fare come la Grecia, perché poi si finisce come la Grecia. E lo dico con grande rispetto per i greci, ma la verità è che noi abbiamo la Grecia in casa, un pezzo di Grecia, e l'Italia pubblica. Lo urlo apposta, perché possiate rifletterci, perché torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 11.37 primi in questo sabato 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, Santa Elisabetta del Portogallo e chissà quanti santi vengono provati in Grecia in queste ultime ore prima di votare, con i compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Renato. Un amico che è un esperto aeronautica mi dice: ah, caro Giannino, hai detto che planate come uno stormo di caccia in picchiata, o si plana o si picchia, e hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Picchiamo. No, adesso ci facciamo una cabrata, quindi andiamo verso l'alto, per così dire, ma non arriveremo al punto di stallo. Un altro ascoltatore dice: Giannino, perché dai dell'idiota a chi critica? Quando? Quando l'ho fatto? Non mi risulta di averlo fatto né in questa trasmissione. No, l'ho fatto io. L'ho fatto io con riferimento a un tweet che era riferito, che era inviato a me, a Carlo Alberto, dove diceva praticamente che le nostre profonde analisi implicavano: prima vanno a fanculo i greci. Siccome io, diciamo, non ho molta pazienza con gli idioti, no? E siccome questo è un commento idiota, e lo ribadisco e me ne assumo la responsabilità. Peraltro è un tweet che viene, come la stragrande maggioranza dei tweet di questo tipo, da fonte anonima. Ah, tra l'altro. E quindi io faccio quello che voglio, nei limiti del codice penale della Repubblica Italiana. Chiarissimo. Bene. Allora, Giorgio da Modena dice che, caro Giannino, dottore non sono, la Grecia dovrebbe essere il suo paese ideale, lì nessuno ha pagato le tasse. No, guardi, proprio non ci siamo. Questa storia, Giorgio, di dire che chi vuole tasse basse e spesa equilibrata alta in finanza pubblica, cioè io faccio questo. Chi dice questo è amico degli evasori. Lei delle due l'una: o lavora all'Agenzia delle Entrate o non ha chiaro che chi per crescere di più bisogna avere equilibrio della finanza pubblica con la maggiore efficienza possibile, con basse tasse, basse spese, trasparenza, capisce? Ecco, questa è la mia idea. Io non sono amico degli evasori, le posso garantire, ho l'Agenzia delle Entrate e la finanza accampata nelle mie micro società. Qui ancora questa settimana ho ricevuto l'ennesimo accertamento in cui, non collegando i miei versamenti, mi si chiedeva di versare 14.000 euro. Naturalmente i versamenti li avevo fatti e, come tutti i contribuenti, sono pronto a rispondere pubblicamente di quello che dico. Santo Dio, che pazienza che ci vuole. Sentiamo Massimo da Brescia. Prego Massimo, che pensa sulla Grecia lei? Sì, ciao Oscar, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo dire, conosco molto, abbastanza bene la Grecia, essendo, avendo fatto un piccolo investimento circa 12 anni in quel paese, poi avendo cercato anche di sviluppare delle attività lavorative. Ci è riuscito? No. No, sinceramente no, per un problema proprio legato alla burocrazia greca. Alla burocrazia. Nel senso che seguivamo un gruppo, un grosso gruppo nel settore energetico italiano che voleva investire nel comparto eolico, ma causa burocrazia greca non siamo riusciti ad andare alla fine dei progetti. La Edison italiana ha una forte presenza in Greca, non so se fosse la Edison, ma no, per dire che ci sono grandi gruppi. Non parlo di Edison. Allora, detto questo, quindi conoscendo un po' la Grecia, che pensi? Mi sono anche sposato lì. Allora, detto tutto ciò, posso dirti che a mio avviso i greci, da quando li conosco io bene, quindi dal 2004, avevo molti amici anche lì, hanno avuto sempre la difficoltà di approccio al mondo del lavoro, primo. Cioè, nel senso che non si è creato, se vuoi, un modello mentale di approccio al lavoro. E questo è fondamentale, perché con qualunque azienda parli, ma con la maggioranza delle imprese con cui parli, che hanno voluto sviluppare dei lavori in Grecia, hanno sempre trovato dei grandi ostacoli burocratici, ma anche di modello mentale, proprio di modello mentale, paese, per capirci rapido, cioè significa che non c'è cultura della responsabilità del lavoro, dell'impegno. Assolutamente. Lei dà un giudizio naturalmente antropologico che rischia di apparire. No, ma io dico quello che penso e quello che ho visto, passando anche attraverso diversi, anzi molti momenti di carattere burocratico, sia personale, sia la burocrazia anche legato al mondo del lavoro. È peggio di quella italiana, questo non c'è dubbio, che ce ne vuole, ma è così. Primo. Allora, poi, ecco. Non si è mai approcciato, cioè i governi precedenti e quello attuale hanno sempre parlato di innalzamento delle tasse per i cittadini. Maggiori tassazioni sugli immobili, maggiori tassazioni sulle reti, sui beni pubblici, IVA maggiorata adesso del 23%, però non si è mai fatto un discorso di sviluppo. Cioè, non ho mai sentito in Grecia uno che aveva parlato di sviluppo. Massimo, il problema è che l'apertura, la Grecia, per chi non lo sa, è un settore al cui confronto persino l'Italia ha un'apertura al mercato molto superiore. Cioè, la Grecia è la somma di legislazioni protettive per praticamente quasi ogni nicchia e specializzazione del mercato del lavoro. Le professioni, che hanno una tutela all'ingresso e entrata enorme, gli autotrasportatori e così via. Allora, le liberalizzazioni in Grecia sono impopolari, come è evidente. Il problema è che l'inefficienza e la bassa produttività generata da tutta questa legislazione protezionista è una delle ragioni di fondo della bassa produttività greca, anche se non spiega però l'assenza di specializzazioni per l'export. Quindi questo è uno dei problemi di fondo di un paese che ha un'economia troppo gracile, e in questo devo dire la verità, sia PASOK che Nea Dimokratia, quindi la destra e la sinistra, sono corresponsabili del protezionismo greco, non è che si può fare grande differenza. Certo, noi battiamo tutti perché abbiamo una Grecia che è una destra che sta a sinistra di Tsipras nel nostro paese. Davide da Caserta, prego Davide. Sì, buongiorno Giannini. Sì. Io sono un importatore dalla Grecia. Cosa importa? Olive. Tipici prodotti alimentari di Grecia. Okay. I miei fornitori adesso stanno cambiando tutti quanti le banche e si stanno rivolgendo a banche svizzere. Quindi volevo dire che c'è sempre qualcuno che ne approfitta di tutto questo. Tsipras produce, per così dire, l'esternalizzazione dei servizi. Se i tuoi servizi bancari vanno in blocco per il sistema di pagamenti, da cui vieni espulso, perché questo è quello che avviene. Questo alla è quello Grecia, che succederà: il sistema di pagamenti verrà bloccato e quel poco che esportano verrà regolato con sistemi di pagamento che funzionano e intermediari di altre nazionalità. Esternamente la Grecia. Grazie per averci sottoposto questo ulteriore particolare delle magnifiche e progressive conseguenze, ovviamente, del sogno chavista che ormai è abbarbicato in un'Europa di cui io non difendo l'impostazione, però, capite? Cioè, non mi fa velo dire quello che compone la lunga lista degli errori e delle responsabilità greche, mettendoci a fianco anche gli errori pazzeschi dell'Europa in questi anni. Dice critica è facile, non è che critica è facile, la testa va usata, ecco, questo è il punto. Antonio da Latina, prego. A tutti gli ospiti. Sì. Dunque, secondo il mio parere, questa Europa così com'è sta distruggendo l'Europa stessa, perché adesso non ce li ricordiamo più, ma una volta ci chiamavano i PIGS, Portogallo, Italia, Spagna e Grecia. Perché? Perché eravamo quelli che stavamo in difficoltà. Ci hanno dato la mazzata finale, cioè, sa chi si è arricchito come la Germania. la Francia, anche se la Francia in qualche modo. Antonio, nei PIGS il Portogallo fa più 1,5%, no? L'Irlanda quest'anno fa più 3,5%, per essere chiari. Allora, la Spagna fa il 2,5% di crescita quest'anno. Certo, la Spagna ha una disoccupazione c'è molto forte. C'è un bell'articolo oggi sul Sole. Però, detto tutto questo, qui a stare col culo per terra siamo noi e a stare col culo sottoterra sono i greci. Quindi dei PIGS si parla meno, perché l'Irlanda ha detto no all'Europa che voleva che alzasse l'aliquota sulle imprese al 12,5, ha tagliato la spesa e per effetto di questo è fuori dalla crisi e cresce al 3,5%. Non è che esiste l'austerità uguale per tutti, l'austerità fatta di meno spesa improduttiva e di poltiglia dei partiti e meno tasse fa crescere, quella fatta all'italiana solo con più tasse non fa crescere, quella fatta con più annunci di tasse che nessuno paga fa crescere meno ancora e sbattere la testa. Non è che esiste l'Europa che distrugge, l'Europa ha delle pesanti responsabilità perché non ha saputo vedere prima gli effetti di queste ricette, però c'è chi se l'è cavata benissimo, chi meglio, Spagna e Portogallo. La Spagna molto ci sarebbe da dire, il rinvio a tutti i posti di Mario Seminario in questi anni, per essere chiari. La Grecia pessimamente e noi fingiamo di essere fichi quando invece ci abbiamo le pezze al culo, se mi permettete il linguaggio non molto rispettoso. Bene, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesto, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta per questi ultimi minuti brucianti del nostro stormo che sta andando, lo stormo di piccioni. Sta picchiando, non planando. Rolla e beccheggia. Ma no, picchiare, molti che non capiscono che il gergone pensano che significa dare le botte. Anche. più o meno. Allora, noi abbiamo, sempre continuando su questa cosa delle partecipate che come avete capito sono un buco nero del nostro giudizio dell'ordinazione dell'ordinamento pubblico italiano, volevamo anche sottoporvi la testimonianza di che c'è chi in Parlamento tenta comunque di occuparsene. Allora è con noi un deputato del Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi. Perché? Perché ho proposto un emendamento che, insomma, recepito in un ordine del giorno, sapete che gli ordini del giorno contano quello che contano, però la maggioranza poi, come si vede, è in difficoltà a dire di no. E questo emendamento prevede che gli amministratori di società pubbliche che ottengono risultati negativi non ricevano bonus. È così, onorevole Cominardi? Buongiorno, innanzitutto buongiorno. Certo. Allora, si tratta in realtà di un emendamento sulla delega della legge sulla pubblica amministrazione che è stata recepita ed inserita nel testo, quindi non è un ordine del giorno, solo che essendo, diciamo, un indirizzo alla legge delega, bisogna aspettare i decreti delegati, poi l'effettiva il governo come lo traduce in concreto. Quindi no, giusto, è una cosa, è un passo come fonte di diritto, non è un ordine del giorno, ma in realtà dovrebbe impegnare il governo un decreto delegato che riconosce appunto questo principio, è così? Esatto, con una valenza comunque molto più importante di un semplice ordine del giorno. Presupposto parte dal fatto che noi abbiamo 2000 partecipate con zero addetti, quindi questo fa capire quanto siano effettivamente dei poltroni fisici. Secondo il commissario Cottarelli, l'ex commissario Cottarelli, sulla spending review sono oltre 10.000 le municipalizzate, esatto, almeno 3.000 con meno di 6 dipendenti. Addirittura in circa metà delle partecipate dei comuni, quelle censite dal CERVET, il numero di dipendenti è inferiore al numero delle persone che siedono nei consigli di amministrazione. Allora vogliamo almeno, quantomeno, valutare il risultato di questi amministratori. Però qual è la ratio di colpire i loro bonus e i loro trattamenti economici variabili, deputato? Esatto, la ratio è, se avete dei risultati di esercizio positivi, una proporzionalità magari ci può però stare rispetto appunto al risultato raggiunto. Sì, però scusi, siccome sono delle municipalizzate che operano in regime di monopolio e quindi per loro realizzare risultati economici positivi basta taglieggiare di più i cittadini, come si riesce a conciliare questo lieve problema di un monopolio con i risultati economici positivi per poter pagare il bonus? Ecco, per la precisione c'era anche un altro aspetto che vorrei, perché in realtà l'emendamento, la prima firma mia, aveva un'altra parte nella quale si voleva considerare non solo il risultato di esercizio positivo, ma anche la qualità del servizio offerto, ma in particolare il discorso legato ai livelli occupazionali, perché si fa anche la svelta magari a tagliare personale. A tagliare o aumentare le tariffe. In taluni casi va anche fatto, nessuno esclude questa cosa, però se bisogna fare sacrifici è giusto che li facciano tutti. Però questa non gliel'hanno passata. Questa parte no, è stata stralciata. E allora possiamo dire, nell'apprezzare, deputato Cominardi, quello che avete fatto, attenti, diamoci appuntamento a un decreto legislativo, perché se resta così il rischio è che semplicemente aumentino le tariffe, lei viene aggirato nel suo intento, ma letteralmente viene invece rispettato nel suo intento, e noi facciamo alzare le tariffe, quelli vanno inutile e a maggior ragione si prendono non il bonus e sono tutti felici e contenti. E allora ovvio, noi ci vediamo genesi dei fini perfetti. Perché lo sappiamo che il vostro intento non era quello, però diffidiamo di coloro nelle cui mani va questo strumento, anche perché, ripeto, nella legge di stabilità c'era un meccanismo ricordato oggi nella nostra trasmissione che non aveva nessuna coazione, nessuna sanzione, e infatti tutti ridono e si fanno baffi più lunghi dei miei da questo punto di vista. Allora, siamo, dopo aver sentito il deputato Cominardi, alla fine con il nostro grandissimo appuntamento con il Non si può fare di Renato, che questa settimana cosa ci riserva? Ah, questa settimana ne abbiamo già accennato un po' prima. C'è questa cosa del Consiglio dei Ministri che continua a fare i decreti, no? Poi tu vai a cercare sul sito, guardi gli annunci, leggi tutte le belle cose che scrivono, eccetera, eccetera, però cerchi di informarti, perché uno dice la legge non ammette ignoranza, pertanto io voglio informarmi e leggere il decreto. Approvano un decreto che è in fase di scrittura. Tu lo sai che il brocardo, come si dice in termini tecnici, che hai ricordato, Nemo censetur ignorare legem, è stato mangiato dal giudice che dice che il sindaco, anzi all'epoca era presidente della provincia, attuale presidente del consiglio, poteva non sapere invece che cosa avveniva delle nomine fatte alla provincia di Firenze. Quindi sai come anche quella è una legge che per gli amici si interpreta, per così dire, come ha fatto il giudice Cioffi sul caso De Luca questa settimana, non ne abbiamo parlato, ma però lasciamo perdere, una legge che per gli amici si interpreta, per così dire, Ma poi chiusa parentesi, sai, diciamo che la legge è flessibile, ecco, è flessibile, dà delle forme di flessibilità, quindi il Consiglio dei Ministri approva dei decreti legge evidentemente che non esistono. Cioè, questo è il mio dubbio, perché io mi aspetto, testi non ci sono. Tendenzialmente quando noi approviamo un qualsiasi documento in consiglio di amministrazione usciamo dal consiglio di amministrazione ma il documento ce l'abbiamo. Esatto. In questo caso no. Poi l'altra cosa di cui volevo parlare, bisogna ricordare ai nostri ascoltatori che nel nostro ordinamento gli effetti ordinamentali, cioè le coazioni e gli obblighi per i privati e i cittadini e per i soggetti pubblici, sono vigenti dalla data formale di approvazione di un testo. Se manca il testo, come si fa a poter mettere in atto gli effetti? Poi sai lì, No, questa è una responsabilità tributaria e penale. Questo è un problema che il signor capo dello Stato Mattarella dovrebbe sollevare, perché è una patente violazione ordinamentale. Noi mettiamo in atto degli obblighi in mancanza di un testo che solo ex post verranno messi in capo a chi li deve adottare, e il signore non poteva adottarli. Vale la questione, scusa la mia ignoranza, non vale quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale? No, dipende, vedrai, su questo faremo un approfondimento, mi hai dato l'idea, un approfondimento sul fatto che dal punto di vista tributario non è esattamente così, per esempio. Perdona l'ignoranza, ma sai. No, poi abbiamo un evergreen, questa è una cosa che va sempre bene. Mi ricordo una strombazzata e un po' di slide su 730 precompilato. E mi sembrava che fosse una delle grandissime innovazioni italiane nuove per i contribuenti, ottimo, il governo, eccetera, l'Agenzia delle Entrate, tutti che si spostavano verso un rapporto migliore col contribuente, tutta una serie di cose. Così, adesso forse ero distratto, però mi sembra di aver letto sta settimana che lo rinviavano. Eh già, è però non so, cioè. E vabbè, ma viviamo in un paese in cui, come vedi, il procedimento legislativo è un po' diverso da quello del procedimento delle decisioni da parte aziendale. Ancora, chiudiamo con la Grecia. Mario da Padova, sulla Grecia? Pronto? Eccoci Mario, dici. Buongiorno signor Giannino, innanzitutto sì, complimenti, perché io la seguo da tempo e lei è uno degli ultimi baluardi della libera informazione. Meno male che c'è, nonostante i guai che ha passato. Grazie, ma devo tutto ai colleghi qui che sono migliori di me e ai quali poi chiederò l'assistenza in galera. Dici, Mario, dici rapido, Mario, che pensi io greci? Solo per dire, a proposito della libera informazione, perché viviamo tempi strani, che io opero in Grecia, in Grecia come operatore turistico, faccio charter in barca a vela. Sulle isole non si vede nulla di quello che sta succedendo. Quindi economia fiorente. I delle file ai bancomat non ci sono. Tutte chiacchiere. Se voi continuate a propagandare un'Europa che non esiste, continueremo a distorcere la realtà. Ok. Insomma, diciamo gli ascoltatori, andate in vacanza in Grecia. Speriamo. Come la presidente della Camera, come la Boldrini. D'accordo. Allora, tutta la compagnia vi saluta, cari ascoltatori.